con questo regolamento si vuole quindi innanzitutto introdurre appunto la valutazione del comportamento che rappresenta anche un premio per la stragrande maggioranza dei ragazzi che tiene comportamenti corretti, comportamenti consoni ed educati. Quindi sarà un modo per premiare chi si comporta bene, ma anche un modo non tanto per punire gli indisciplinati, ma per educarli, per non lasciarli soli, e quindi è innanzitutto il voto in condotta una responsabilizzazione del ruolo degli insegnanti. Questo è l'elemento più importante, che si lega ad una serie di provvedimenti che vogliono restituire alla scuola innanzitutto la funzione educativa. A scuola ci si reca per apprendere l'italiano, la matematica, le lingue straniere, ma anche non solo per apprendere il sapere, ma anche per essere formati, per diventare cittadini consapevoli dei propri diritti, ma anche dei propri doveri. E io ritengo il voto in condotta fortemente legato proprio sul piano pedagogico anche alla reintroduzione dell'educazione alla cittadinanza e Costituzione, che sarà una sede dove ci sarà un protagonismo forte dei ragazzi. Lì potranno esprimere la loro creatività per fare in modo che non rappresenti la vecchia ora di educazione civica, che ha sempre un po' annoiato e lasciato poca traccia, ma un momento per apprendere per esempio una corretta educazione alimentare, una corretta educazione e una forte lotta contro le droghe, un'attenzione all'educazione ambientale e anche all'educazione stradale. Quindi questi elementi vogliono davvero rappresentare la volontà di restituire alla scuola il ruolo di agenzia educativa.